Studiate le opere del presidente Mao, seguite i suoi insegnamenti e agite secondo le sue direttive. Il nucleo delle forze che dirigono la nostra causa è il Partito Comunista Cinese. La base teorica che guida il nostro pensiero è il marxismo-leninismo. Un partito disciplinato, armato della teoria marxista-leninista, che applichi il metodo dell'autocritica che sia legato alle masse. Un esercito che sia diretto da un siffatto partito. Un fronte unito di tutte le classi rivoluzionarie e di tutti i gruppi rivoluzionari, diretto da un siffatto partito. Queste sono le tre armi principali con le quali abbiamo sconfitto il nemico. La lotta di classe. Alcune classi vincono, altre vengono eliminate. Questa è la storia. La storia della civiltà da migliaia di anni. Interpretare la storia da questo punto di vista è materialismo storico. Mettersi da un punto di vista opposto è idealismo storico. La lotta nazionale, in ultima analisi, è una lotta di classe. Ad opprimere i negri negli Stati Uniti sono solo i gruppi dirigenti reazionari della razza bianca. Essi non rappresentano in alcun modo gli operai, i contadini, gli intellettuali rivoluzionari e le persone illuminate che formano la stragrande maggioranza dei bianchi. La rivoluzione non è un pranzo di gala. Non è la stessa cosa che scrivere un saggio, dipingere o ricamare. Non può farsi con altrettanta raffinatezza, tranquillità e gentilezza, con tanta dolcezza, amabilità, cortesia, ritegno e magnanimità. La rivoluzione è tumulto e azione violenta di una classe per rovesciarne un'altra. Chi si pone a fianco del popolo rivoluzionario è un rivoluzionario, mentre chi sta dalla parte degli imperialisti, del feudalesimo e del capitalismo burocratico è un controrivoluzionario. Chi sta dalla parte del popolo rivoluzionario solo a parole, mentre nei fatti si comporta diversamente, è un rivoluzionario a parole. Chi sta dalla parte del popolo non solo a parole, ma anche nei fatti, è un rivoluzionario nel vero senso della parola. Dobbiamo sostenere tutto ciò che il nemico combatte e combattere tutto ciò che il nemico sostiene. In fin dei conti, il regime socialista si sostituirà al regime capitalista. È una legge oggettiva, indipendente dalla volontà umana. Nonostante tutti gli sforzi dei reazionari per frenare la ruota della storia nel suo movimento in avanti, la rivoluzione scoppierà prima o poi e sarà necessariamente vittoriosa. La dittatura democratica del popolo richiede la direzione della classe operaia, perché la classe operaia è la classe più lungimirante, più altruista e più radicalmente rivoluzionaria. Tutta la storia della rivoluzione dimostra che, senza la direzione della classe operaia, la rivoluzione fallisce e che con la direzione della classe operaia, la rivoluzione trionfa. Nella nostra società esistono due tipi di contraddizioni. Le contraddizioni tra noi e i nemici e le contraddizioni in seno al popolo. La natura di questi due tipi di contraddizioni è completamente diversa. Tutte le questioni di carattere ideologico, tutte le controversie in seno al popolo possono essere risolte solo con metodi democratici, con metodi di discussione, di critica, di persuasione e di educazione. Non possono essere risolte con metodi coercitivi e autoritari. La guerra è la più alta forma di lotta, sorta con il sorgere della proprietà privata e delle classi, per risolvere a un determinato livello del loro sviluppo le contraddizioni tra classi, nazioni, stati e gruppi politici. Ogni comunista deve afferrare fino in fondo la verità del detto: il potere proviene dalle canne dei fucili. Siamo per l'abolizione delle guerre. Non desideriamo la guerra. Ma la guerra può essere abolita solo mediante la guerra. Perché non ci siano più fucili, bisogna impugnare il fucile. La guerra, questa mostruosa e reciproca carneficina tra gli uomini, sarà infine eliminata dal progresso della società umana ed in un futuro non troppo lontano. Ma vi è un solo modo di sopprimerla, ed è opporre guerra a guerra. Opporre guerra rivoluzionaria a guerra controrivoluzionaria. Guerra nazionale rivoluzionaria a guerra nazionale controrivoluzionaria. Guerra rivoluzionaria di classe a guerra controrivoluzionaria di classe. Quando la società umana giungerà alla eliminazione delle classi e dello Stato, non vi saranno più guerre, né controrivoluzionarie né rivoluzionarie, né giuste né ingiuste. Sarà l'era della pace eterna per l'umanità. Noi studiamo le leggi della guerra rivoluzionaria, spinti dal desiderio di eliminare ogni guerra, e in questo sta la differenza tra noi comunisti e tutte le classi sfruttatrici. Tutti i reazionari sono tigri di carta. Apparentemente essi sono terribili, ma in realtà non sono così potenti. Guardando le cose in prospettiva, è il popolo ad essere realmente potente e non i reazionari.